La storia andava più o meno così. Cosa andate a fare a Montalcino? Secondo te cosa andiamo a fare? Dimmelo tu, Vittorio. A vendere i delfini in pratica. Senti, dimmi chi sono i tuoi compagni di viaggio. Cioè, sono tutti e quattro storditi. Manolo, che è un mio collega di lavoro. Sì. Poi il suo cognato, che si chiama Michele. Sì. E poi c'è Nelson. Era la saga di Vittorio e i suoi amici. Vittorio è andato a Montalcino e incredibilmente è anche tornato ed è al telefono con me. Pronto, Vittorio? Pronto? Ci sei? Ciao Matteo, sì, tutto a posto. Sento la voce un po' incrinata però, Vittorio. Siamo in fase di smaltimento. Di smaltimento. Senti, facciamo così, in poco tempo, da venerdì quando ci siamo sentiti ad oggi, che cosa è accaduto in questo fine settimana devastante? Niente, è accaduto che abbiamo trovato questa cantina, ci siamo riempiti bene la pancia, abbiamo riempito la macchina, abbiamo portato a casa un po' di vinello. Quanto ne avete portato a casa? Ma tutto quello che ci stava in macchina. Abbiamo lasciato là i vestiti per mettere dentro le bottiglie, fai te. 150 bottiglie più o meno. Scusami, avete lasciato là che cosa? Le valigie, le borse con i vestiti, i sacchi a peli, perché non ci stava il vino. Allora abbiamo lasciato là tutto, così ci stava più vino in macchina. E come fate a riprendervi le valigie, scusami? Gliele abbiamo regalati là, ragazzo. A Luigi, toscano, spettacolare. Va bene, Vittorio, senti, adesso tu sei al lavoro e se non ricordo male, la saga... Un po' il serio. Bravo, la saga di Vittorio e Manolo era che voi due lavorate insieme e siete odontotecnici. Bravissimo, giusto? Infatti siamo qua in laboratorio adesso. E cosa avete fatto stamattina? Stamattina io ho già fatto la cazzata del giorno, sbragato su un paio. Guarda, era proprio la parola che volevo da te, Vittorio, in diretta. Dimmi cosa hai fatto. Dovevo fare una consegna stamattina alle 10, invece è andato tutto un po' a fumo. Ma cos'era, una capsula? Cos'era? No, dovevo saldare degli attacchi e una protesi. No, non era facile come lavoro, E cosa hai combinato? Ho bruciato un attacco. Vabbè, Vittorio, scusami, sulla voce che si incrina, io credo che sia arrivato il momento di salutare te, salutare Manolo. È lì con te, mi fai fare un saluto al volo, sì, però, senza passargli il telefono. Vabbè, passami il telefono. Ciao a tutti. Ma a chi? Saluta tutti, Vittorio. Lui saluta tutti. Pronto, Manolo? Niente. Pronto? Manolo, mamma mia, che voce che hai anche tu. Un attimo perché. No, guarda, Manolo, volevo solo salutarti e avere conferma che stai bene. Tutto bene, ti saluto anche a te e tutti gli ascoltatori e tutti quelli che ormai ho già piazzato davanti alle radio perché ci stanno ascoltando un po' di gente. Siete ecumenici.